La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte, come di consueto, l'approfondimento di Dino Pesole, che questa settimana è dedicato alla figura di Guglielmo Massaia, un umile frate cappuccino, cardinale antesignano della politica coloniale italiana in terra d'Africa nella seconda metà dell'Ottocento. Ospite ai nostri microfoni Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana. Umile frate cappuccino, prima ancora che cardinale, figura straordinaria di religioso, di missionario, ma anche di abile diplomatico, esaltata durante il fascismo che ne fece l'antesignano della politica coloniale italiana in terra d'Africa, poi quasi totalmente dimenticata. Stiamo parlando di Guglielmo Massaia, il vescovo poi cardinale che Gregorio XVI inviò in Etiopia nel giugno del 1846. All'Etiopia Massaia dedicherà 35 anni della sua vita, un pioniere in una terra fino allora quasi sconosciuta, coraggioso missionario, di cui proprio quest'anno ricorrono i 200 anni dalla nascita, che istituì il primo monachesimo etiopico cattolico, compose la prima grammatica e il primo catechismo in lingua galla, si servì della pratica medica acquisita all'ospedale Mauriziano di Torino per combattere il vaiolo. Dunque un personaggio di notevole spessore, rievocato lo scorso 24 settembre in apertura della seconda edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, organizzata a Villa Celimontana a Roma dalla Società Geografica Italiana e da Federculture, iniziativa nata su intuizione di Claudio Bocci. È stata allestita anche una mostra sul cardinale e sugli esploratori che seguirono le sue orme, oggetti, documenti, disegni, fotografie, carte geografiche, ma anche lo studio dal quale Massaia scrisse le sue memorie. Il 1846 è un anno determinante per la diffusione del cattolicesimo in Etiopia. Il 4 maggio Gregorio XVI istituisce il vicariato apostolico dei Galla. Subito dopo chiama a reggerlo come vescovo proprio Guglielmo Massaia, che viene consacrato in San Carlo al Corso in Roma il 24 maggio. Lascia l'Italia il 4 giugno 1846, ma raggiunge il territorio della sua missione solo il 21 novembre 1852. 8 traversate del Mediterraneo, 12 del Mar Rosso e 4 pellegrinaggi in Terra Santa. 4 assalti all'impenetrabile fortezza abissina dal Mar Rosso, dall'Oceano Indiano e dal Sudan. 4 esili, altrettante prigionie e ben 18 rischi di morte costituiscono il bilancio di quella sua leggendaria missione, che lo iscrive fra i più grandi apostoli della Chiesa. Il tutto in condizioni estremamente difficili, senza direttive precise da Roma, nel pieno di continue lotte tribali. Leone XIII lo promuove arcivescovo titolare di Stauropoli il 2 agosto 1881 e lo nomina cardinale il 10 novembre 1884. Guglielmo Massaia muore a San Giorgio a Cremano nei pressi di Napoli il 6 agosto del 1889. Nel 1914 hanno inizio i processi per la sua beatificazione. Il 18 ottobre 1993 il vescovo di Frascati nomina i due censori per l'esame degli scritti del Servo di Dio, lavoro portato a termine nel 1994. Ora la causa di canonizzazione è stata ripresa anche grazie all'interessamento del cardinale Angelo Sodano. Alla figura di Massaia è dedicato un film che ha un notevole interesse storico. È un film del 1939, Abuna Messias di Goffredo Alessandrini, proiettato il 23 settembre scorso a Villa Piccolomini a Roma. E questo è un brano che illustra l'opera di assistenza ai malati di vaiolo di Massaia. È proprio vaiolo. Leone, noi restiamo. Dì al capo carovana di mettere il campo e tu portami la cassetta delle medicine. Sì. Coraggio, donna, lo cureremo e chissà che non possa salvarsi. E smettila. Abbiamo in linea Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana, nonché presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della Nascita di Guglielmo Massaia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per l'invito. Allora, ci dica, a cosa si deve la scelta di revocare un personaggio così straordinario, così interessante, ma probabilmente sconosciuto ai più? Ma intanto perché, come lei stesso ha detto, si tratta di un personaggio di estremo interesse, un personaggio che ha bisogno di essere riscoperto perché la patina della storia, le incrostazioni a volte anche interessate di certi periodi della storia nazionale ne hanno fatto un personaggio da un lato conosciutissimo, ma in realtà ancora molto sconosciuto, tutto da riconoscere per quello che è stato effettivamente. Cardinal Massaia è stato intanto un esploratore importante, quindi ha dato un contributo significativo dal punto di vista delle conoscenze geografiche di una parte dell'Africa intorno alle sorgenti del Nilo, cioè quella parte che ancora a metà 800 rappresentava l'Hic Sunt Leones e quindi, come dire, la parte affascinante dell'esplorazione geografica. E poi perché in effetti la sua azione politica, diplomatica, missionaria, fondamentalmente missionaria, è stata alle volte travisata, alle volte esaltata, alle volte misconosciuta. C'è bisogno di fare chiarezza con gli occhi che soltanto la distanza del tempo ci consente. Quindi diciamo esploratore, diceva lei, missionario, ma anche diplomatico, ad esempio. Anche diplomatico, certamente, perché nei suoi primi anni di presenza in Africa era in contatto continuo con lo Stato sabaudo e poi con lo Stato unitario. Noi conosciamo lettere indirizzate a Cavour, noi conosciamo lettere indirizzate a Pio IX. Intenso è stato il dialogo di Massaia con Leone XIII, ma anche con i regnanti italiani in questa azione di contatto con le autorità locali, in particolare con Menelik, che lo accolse, che lo aveva individuato come un interlocutore credibile, mosso cioè non da interessi strettamente coloniali e di espansione dell'Europa, ma come persona di grande valore umanitario, di persona di grande valore intellettuale, di persona cioè che potesse oggettivamente essere interlocutore valido per le mire di Menelik di aprirsi alle relazioni con l'Europa, e questo in un, come dire, in un anticipo rispetto al suo rivale Johannes, che poi tra l'altro inizialmente lo sconfisse per il predominio in Etiopia, per diventare imperatore d'Etiopia. Ecco, questo è interessante, il rapporto di Massaia con Menelik, che anche alla luce del film che è stato proiettato nei giorni scorsi a Buna Messias, lì si capisce bene che ci fu un rapporto vero, reale. Poi a un certo punto si ha l'impressione che Menelik in qualche modo utilizzi dal punto di vista politico la figura di Massaia proprio per aprirsi un varco, come lei diceva, verso l'Europa. Menelik era un fine politico che aveva che ragionava secondo i criteri del ragionamento politico e quindi anche utilizzando i suoi interlocutori. Certamente Massaia forse era un po' più ingenuo in questo, avendo come obiettivo di fondo quello della evangelizzazione, cioè quello di fare breccia in una popolazione che mostrava attenzione, anche perché fondamentalmente già cristiana e quindi pronta ad accogliere dimensioni diverse del messaggio cristiano che non fosse quello ortodosso copto che era già presente. Tanto che tra l'altro, almeno così nella vulgata data nel film di Alessandrini, il vero nemico, i veri nemici di Massaia è stato il clero copto, che vedeva una sorta di concorrenza in Massaia stesso.